Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, il tema soprattutto, e quindi l'investitura a breve che il Quirinale, salvo sorprese, l'ultima ora dovrebbe dare a Matteo Renzi dopo appunto le dimissioni di Enrico Letta. Molte agenzie, lo dico subito così partiamo subito con una polemica, molte agenzie battono il titolo sulla borsa italiana, la borsa festeggia Renzi. Ho visto dei titoli obiettivamente effetto Renzi su Piazza Affari. Ora va bene tutto, l'effetto Renzi su Piazza Affari magari c'è, è vero che Milano va meglio di altre borse europee, è vero però che a Milano pesano di più i titoli bancari e oggi vanno discretamente bene tutti i titoli bancari. Sullo spread a 202 punti, anche qui attenzione, era sceso anche negli ultimi giorni del governo Letta a 200 punti, sotto i 200 punti. Perché lo dico? Perché un conto, a mio avviso, modestamente, da un punto di vista giornalistico, è dire che non vi è nessuna tensione finanziaria sull'Italia, nonostante il governo sia caduto, e questo è verissimo. Parlare già di effetto Renzi su Piazza Affari mi sembra così iniziare un po' con una geografia di cui non si sente il bisogno, vogliamo risposte concrete, non titoli agiografici. Comunque la borsa fa l'1,60% di rialzo, Parigi più 0,60% come Francoforte, Londra più 0,11%, l'America più 0,40%. Bene, Finmeccanica, e ne parleremo. Ieri abbiamo avuto un'intervista in cui in pratica veniva già anticipato quello che poi è successo oggi su Finmeccanica, ma Finmeccanica più 4,80%, molto bene anche Ansaldo STS. E per quello che all'opposto di Ansaldo STS, volevo dire che perde invece il 3,73%. Se tra i titoli che vanno bene anche TOZ più 4,12% e CNH Industrial più 3,80%, Banco Popolare più 3,60%, UbiBanca più 3%, UniCredit più 2,30%, segnalo anche Fiat più 2,70%, Pirelli più 2,30%, UnipolSai più 2,20%, come Enel il 2% lo guadagna la Pop Milano, l'1,90% Prismian. Chi perde appunto Ansaldo STS meno 3,73%, ma come spiegheremo dopo nel corso dei mercati sono ipotesi speculari, visto che oggi si viene ventilata la possibilità di un passaggio delle quote che Finmeccanica in Ansaldo STS alla Cassa Depositi e Prestiti, e quindi andamento diametralmente opposto tra Ansaldo appunto meno 3,73% e Finmeccanica la controllante più 4,80%. Ancora per quello che riguarda i titoli, Luxottica perde l'1,40% sull'ipotesi che l'amministratore delegato di Luxottica, Andrea Guerra, possa entrare come ministro, qui c'è un effetto Renzi se vogliamo sul titolo, possa entrare come ministro nel governo Renzi. E qui introduciamo anche quello che sarà il tema della seconda ora del programma, perché non è un mistero che tra la squadra, vogliamo chiamarla così, i consulenti, i consiglieri di Matteo Renzi, vi sia sicuramente Andrea Guerra, che è intervenuto anche all'ultima Leopolda, Oscar Farinetti, che da sempre ha manifestato il suo appoggio per Matteo Renzi, mi riferisco solo a quelli di carattere più economico, Oscar Farinetti chi ha creato Italy, Andrea Guerra appunto l'amministratore legato di Luxottica, e poi Davide Serra che è il numero uno del fondo di investimento Algebris. Serra sarà nostro ospite nella seconda ora del programma per capire intanto se vuole, se pensa di fare ministro delle finanze in un eventuale governo Renzi. È l'uomo che ha introdotto Renzi nella comunità finanziaria di Milano, suscitando anche polemiche a suo tempo. Si disse, ecco, Renzi pensa più alla finanza che ai lavoratori. E poi cercare di capire anche da lui che cosa dovrebbe fare Renzi e perché abbia scelto di accelerare i tempi, della sua salita, ammesso che tutto vada al secondo copione, a Palazzo Chigi. 349-238-6666 per i vostri sms alla pagina di Focus Economia su Facebook. In apertura però ci occuperemo dell'economia reale, o meglio degli imprenditori. È la seconda fase di quanto è avvenuto ieri a Torino, oggi addirittura un flash mob. Cos'è un flash mob? È quando ci si dà appuntamento tramite la rete per fare una manifestazione o per organizzare un evento spontaneo. Ecco, un flash mob degli imprenditori ancora non l'avevamo mai visto, e su questo invece è avvenuto oggi davanti alla Camera con un tappeto di rose rosse. Lo hanno organizzato gli imprenditori piemontesi. La manifestazione si chiama Amo l'Italia e basta, in realtà Amo l'Italia ma basta, in realtà per chiedere al governo interventi urgenti sulla liberalizzazione del mercato del lavoro, sul cuneo fiscale, sulle semplificazioni della burocrazia e poi un cambiamento della cultura del paese. Ne parlava ieri anche il presidente Confindustria Squinzi, proprio da Torino, un paese che diventi a favore dell'impresa e non vede l'impresa sempre come qualcosa o di pericoloso o da mungere fiscalmente. Adesso però le altre notizie in breve. Smettiamo di fare, perché fra un po' faremo i santini con San Matteo, Renzi, adesso la borsa va meglio perché c'è Renzi, è arrivato il sole perché c'è Renzi, ha smesso di piovere perché c'è Renzi, ma lasciatelo stare, cioè, lo dico con massimo rispetto, lasciatelo, vediamo intanto se forma governo, con che maggioranza lo forma, se e in che tempi riesce a fare le riforme. Noi iniziamo a dire fra un po' che battezzeremo i bambini Matteo, non lo so, che dobbiamo fare ancora, dai. No, l'effetto Renzi in borsa mi mancava. Colpa anche dei miei colleghi, colpa anche dei miei colleghi. Va bene, dal Brasile arrivano segnali di ripresa, il PIL cresce del 2,5%. In America invece c'è una battuta d'arresto sulla produzione manifatturiera. In Europa l'Eurobarometro segnala un cauto ottimismo nell'Unione Europea dei vari cittadini. Un ottimismo abbastanza diffuso, ma non tra gli italiani. Per gli italiani, infatti, il 53% degli italiani non si sente cittadino europeo, e invece è abbastanza stabile il sostegno all'euro, alla moneta unica. È più, diciamo, critico l'atteggiamento degli italiani sull'Europa che sull'euro. Commercio estero invece la bilancia commerciale dell'area euro per il 2013 è da record storico, ossia un attivo da 153,8 miliardi di euro, la differenza tra quanto l'area euro ha importato l'anno scorso e quanto è riuscita a esportare, tutto frutto del boom dell'export che è arrivato a un record assoluto, 1887 miliardi di beni e servizi che l'area euro ha esportato verso i paesi fuori dall'Unione Europea. No, lo dico perché tutti i teorici dell'anti-euro, che l'euro distrugge l'economia, allora questi dati sono stati, questi record sono stati ottenuti grazie alla bravura e alla capacità di competere delle imprese dell'area euro, nonostante l'euro fosse a quota 1,36-1,37. Poi qualcuno mi dovrà spiegare prima o poi perché gli industriali di tutta Europa siano contrari all'ipotesi di sgretolare l'euro, perché se il problema è che l'euro ci rende poco competitivi, dovrebbero essere gli industriali i primi a dire fuori dall'euro, e invece sono i primi a dire no, stiamo nell'euro. Allora c'è qualcosa che non torna, forse, no? E certo che uno può aggiungere, chissà quanto avremmo esportato con un euro più debole rispetto al dollaro, rispetto anche a altre valute, ma questo è un problema di rapporti di cambio, non dell'esistenza o meno della moneta unica. Comunque il PIL tedesco nel quarto trimestre ha fatto un più 0,4%, quello dell'area euro più 0,3%, e finalmente c'è anche un PIL italiano che torna a crescere, è la prima volta da 9 trimestri consecutivi, merito di Renzi pure questo, no, è il trimestre, è l'ultimo trimestre del 2013, prima che le agenzie titolino il PIL torna a crescere effetto Renzi, diciamo il PIL appunto ha fatto più 0,1% rispetto al terzo trimestre, è ancora negativo però il nostro PIL nell'ultimo trimestre 2013 rispetto a un anno prima dello 0,8%. E infatti il dato finale su come è andata la nostra economia l'anno scorso ha fatto meno 1,9%, un'altra botta quindi per il PIL italiano. Ancora il debito pubblico invece è risultato in flessione a 2.067 miliardi di euro, soprattutto una flessione di 37 miliardi di debito a dicembre rispetto a novembre. Dunque, a chi scrive che i dati europei sull'export da record sono merito delle imprese tedesche, no, guardi, si sbaglia e anche di tanto. Le imprese italiane dopo quelle tedesche sono quelle che hanno registrato il maggior attivo commerciale, il maggior surplus nella bilancia commerciale, quindi non sono solo le tedesche. Il nostro spread resta intorno ai 200 punti base, la Spagna ce l'ha più basso però lo spread a 190 punti e... Vedo molti sms sull'effetto Renzi anche nella vita privata, nel rapporto marito-moglie. Vabbè, speriamo che sia quello. In mogli che si concedono finalmente come effetto Renzi e mariti che finalmente, diciamo, hanno voglia di concedersi anche loro come effetto Renzi. Vabbè, no, ma in effetti quando poi le agenzie titolano in borsa effetto Renzi viene voglia di scrivere queste cose, avete ragione. Vabbè, nel frattempo poi altre dichiarazioni su Renzi, addirittura c'è un'agenzia che dice Milano corre con Renzi, siamo ai massimi dal luglio del 2011. Per favore, per favore, deve ancora insediarsi. Comunque, commento su Renzi invece da parte del Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso. Ho incontrato diverse volte Matteo Renzi, mi sembra un europeista molto impegnato e profondamente interessato a far avanzare il processo di integrazione europea. Angela Merkel segue il governo tedesco con grande attenzione agli sviluppi della situazione politica italiana e auspica una rapida soluzione. Ora, io non posso fare ogni volta una puntata contro la Merkel. Anche noi auspicavamo una rapida soluzione per il governo tedesco che ci ha messo qualche settimana. Adesso, ognuno si guardi in casa. La Corte dei Conti, comunque mi sembra che stavolta saremo più rapidi dei tedeschi, visto che c'è un unico nome, c'è un unico candidato, tra domani e domenica dovrebbe salire al Colle, al Quirinale, per cui non si preoccupi, la soluzione sarà rapida, il problema è cosa capita dopo la soluzione. La Corte dei Conti italiana, dicevo, ci sono ampi margini per razionalizzare la spesa pubblica, dice il Presidente della Corte dei Conti Raffaele Squittieri, e banalmente lo stiamo raccontando con tutti gli sprechi di cui parliamo ogni giorno da un anno. C'è ancora molto da fare per il rilancio dell'economia, non basta l'allentamento delle tensioni, il contesto è ancora difficile e ora occorre fare le riforme, il Paese dimostri di avere capacità nuove. Il 2014 sarà un anno in cui il Paese dovrà dimostrare capacità nuove, saper riformare le proprie istituzioni e le regole, orientare il contributo di tutti al risanamento complessivo. E quale capacità dovrà dimostrare anche l'Europa nella ricerca delle autentiche ragioni dell'appartenenza all'Unione, che vanno ritrovate non nei soli vincoli di bilancio, ma anche nell'adozione di progetti di rilevante interesse strategico comune. Si tratta di sfide molto impegnative, che impegnano radicali cambi di rotta nei comportamenti e negli strumenti finora impiegati. In questo momento storico così difficile, in questo tempo della responsabilità, l'Italia può contare sulla Corte dei Conti per la tutela dell'unità economica della Repubblica. Il nostro impegno è totale e senza condizioni. L'Istituto, pur a fronte di compiti sempre più complessi e gravosi, è in grado di garantire al Parlamento e alla collettività la piena dedizione dei propri magistrati e del proprio personale, consapevoli tutti dell'alta missione che ad essi è stata affidata, con la finalità di contribuire a condurre il nostro Paese sul terreno sicuro dello sviluppo economico, della legalità e della giustizia sociale. E poi sempre il Presidente della Corte dei Conti che dice attenzione, la lotta alla corruzione resta la priorità, è arduo stimarla, ma dice, riferendosi agli enti locali, che il fenomeno delle società partecipate dagli enti locali ha assunto un'importanza fondamentale per la finanza pubblica, perché si verifica sempre più spesso che il loro dissesto trascini con sé anche quello degli enti locali di riferimento, cioè salta la cassa di comuni, province e regioni sempre più spesso perché è saltata la cassa delle società che loro controllano. Il fenomeno delle società partecipate ha assunto un'importanza fondamentale per la finanza pubblica. Recentemente il legislatore vi ha prestato particolare attenzione, con norme dirette a disciplinare la loro vita interna e creando una forma di controllo degli enti territoriali sulla gestione delle società da essi partecipate, sia per quanto riguarda le regioni, sia per quanto riguarda gli enti locali. Si verifica sempre più spesso che il dissesto delle società partecipate trascina con sé quello degli enti locali di riferimento. Il modello organizzativo civilistico-privatistico di questi enti, per lo più società per azioni, ha fatto attribuire al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti dalle società a partecipazione pubblica. Ciò malgrado esse operino quasi sempre ed esclusivamente con patrimonio pubblico. La soluzione non è senza conseguenze di rilievo. Il diniego della giurisdizione contabile a fronte dello sperpero di denaro e beni pubblici rende problematico e incerto il ripristino delle risorse danneggiate. Allora, quest'ultimo era in realtà il procuratore generale della Corte dei Conti, Salvatore Nottola, e adesso veniamo invece al tema, alle domande che restano tutte sul tappeto, i problemi, le domande, le inefficienze, le diseconomie di questo paese. A chi mi scrive, lei ha iniziato a sfottere Renzi, sono ordini del suo presidente, immagino si riferisca a Squinzi, o è roba sua, ma io dico, ma intanto è roba mia, come tutto quello che dico qui, cattiva o giusta che sia, ma poi non abbiamo sfottuto Renzi, ho sfottuto casomai i miei colleghi giornalisti di alcune agenzie di stampa che si sono messe a dire la borsa sale, effetto Renzi, la borsa record, effetto Renzi. Mi sembrava che secondo le migliori tradizioni l'Italia fosse pronta, come diceva Flaiano, a correre in aiuto dei vincitori, no? Allora, stiamo tranquilli, non c'è alcun effetto Renzi, diciamo che non c'è nessun effetto Letta sulle borse, c'è la crisi di governo e la caduta del governo non ha provocato nessuna tensione né sullo spread né sulla borsa italiana, ma io parlerei più di non effetto Letta che di un effetto Renzi. Un tappeto di rose rosse davanti alla Camera, un flash mob organizzato dagli imprenditori piemontesi, oggi al grido amo l'Italia ma basta, per chiedere al governo interventi urgenti su liberalizzazione del mercato del lavoro, cuneo fiscale, semplificazione e in generale un grande cambiamento culturale nei confronti delle imprese. Sono 4.914 rose quelle portate oggi a Roma, una per ogni azienda associata a Confindustria Piemonte. Siamo in collegamento con la presidente degli industriali di Torino e ideatrice di questa marcia dei 40.000, come l'ha definita ieri Squinzi, digitale, Licia Mattioli, buonasera. Buonasera, innanzitutto una piccola correzione, sono 5.914 e non 4.914 le rose. Le aziende sì, che sono associate al sistema confindustriale in tutto il Piemonte. E quindi anche le rose? E quindi anche le rose di conseguenza, una rosa per ogni azienda. Ce ne siamo persi mille. No, grazie a lei. Guardi, l'ideazione di questa marcia ovviamente nasce da Torino, perché Torino ha un humus di questo genere da sempre, no? Unità d'Italia, poi marcia dei 40.000. E noi abbiamo voluto ricreare questa cosa tramite un sito questa volta, che è la ripresa www.ripresaimpresa.it, nel quale ogni imprenditore può lasciare una pillola della sua storia di difficoltà a fare impresa in Italia. E questo un po' per far capire che noi ci siamo, continuiamo a investire in Italia, siamo ancora qui, ma non ce la facciamo più. E quindi bisogna assolutamente che le cose cambino. E questa è una marcia che io spero che nasca come un rivolo, poi diventi un fiume, poi un fiume in piena e poi un mare. Perché credo che gli imprenditori italiani continuino a fare la loro parte a dispetto di quello che dicono alcuni dei nostri governanti, ma non ce la facciano più. Allora, le rose avevano le spine? Le rose non avevano le spine, ma questo non è stato un fatto voluto. No, ma comunque le rose hanno un significato molto importante, che è quello di una manifestazione non violenta, e che noi vogliamo una rivoluzione, ma culturale, quindi un cambiamento che riconosca il valore all'impresa, perché vorremmo un paese nel quale l'impresa fosse al centro, perché la ripresa passa dall'impresa. Vabbè, su questo non ci sono dubbi, e spesso abbiamo raccontato anche in questi giorni che cosa vuol dire una cultura anti-impresa, perché poi bisogna anche tradurre in concreto. Vuol dire per esempio che le piccole e medie imprese italiane spendono ogni anno 5 miliardi di euro per la burocrazia che brucia. Ma questo vuol dire in giorni, che fa ancora più effetto. 47, a noi risultava con l'ultimo sondaggio 47 giorni lavorativi, 28 giorni dei dipendenti. Però al di là di questo, i dati Doing Business della Banca Mondiale, insomma, vedono l'Italia essere indietro su tutte le procedure burocratiche per avviare un'impresa, e faccio notare che il suo collega imprenditore, che è anche presidente di Confindustria della parte ceramica, che è venuto ospite 3 giorni fa, raccontava della sua esperienza per aprire uno stabilimento in America. Sì. A me la cosa che ha impressionato 7 mesi contro? No, ma non era solo questo, è che il numero di controlli era praticamente, e di procedure era praticamente uguale a quelle italiane, e che anche. E quindi non è vero che laddove si apre impresa velocemente perché non fanno i controlli, non ci sono le verifiche e c'è l'insediamento selvaggio, e le sanzioni erano anche molto dure. Quello che cambiava era la risposta, i tempi di risposta della pubblica amministrazione, ore o giorni, addirittura il caso di loro inadempienti, viene bloccata l'attività, stavano costruendo un nuovo stabilimento, il giorno dopo hanno fatto la pratica burocratica che doveva essere fatta, viene risbloccata l'attività, cosa impensabile da noi. Raccontavo il caso di Gianluca Rana, che a San Bonifacio, se non ricordo male, non a Verona, ha dovuto aspettare 3 settimane l'ultimo timbro del funzionario comunale perché era senza macchina di servizio, non poteva prendere l'autobus, non poteva prendere il taxi e non voleva farsi offrire il passaggio dalla Rana stessa. 3 settimane per l'ultimo via libera, solo perché mancava la macchina. Dopo... Guardi, queste sono storie di quotidiana follia, ma ne possiamo raccontare quante ne vuole, lei lo sa, le sente tutti i giorni ormai, no? Ed è per questo che non si può più fare impresa in questo paese, e noi vogliamo farlo, e quindi diciamo basta, perché il nostro amore non corrisposto, ed ecco perché le rose oggi a San Valentino, perché noi amiamo il nostro paese. E quindi vede, vogliamo veramente un cambiamento radicale, con i fatti e non più con le parole, perché di parole siamo stufi marci, vogliamo delle riforme semplici. Anche lei parlava di burocrazia, ma anche la semplificazione di questa burocrazia, no? Non si capisce neanche cosa c'è scritto nelle leggi, e le dice uno che prima di essere un imprenditore è un avvocato, per cui capisce, certezza del diritto, un'altra cosa che manca moltissimo, lei non sa mai se fa bene o male, perché c'è incertezza su tutto. Allora, dopo il meteo e le informazioni pubblicitarie, vorrei capire che effetto le ha fatto però depositare 5.914 rose rosse davanti a una Camera, davanti a delle istituzioni che oggi sono obiettivamente non in crisi, ma in un periodo di interregno, perché è caduto un governo e se ne deve formare un altro. Questo poi vuol dire le richieste che ponete, i tempi di soddisfazione di queste richieste. Io non posso invece rispondere agli ascoltatori sul tema dell'euro ancora, io non sono un euroentusiasta, dico solo che sarebbe una follia uscire dall'euro, sono molto molto scettico e critico invece della gestione di questa Europa, di quest'area euro, e penso che uno degli errori del governo Letta, l'abbiamo detto in tutti i modi, sia stato anche di non battere i pugni a Bruxelles sul tavolo, e di non parlare del tema del fiscal compact che arriverà, perché fra 11 mesi noi abbiamo firmato un trattato che prevede che tagliamo ogni anno per 20 anni di quasi 50 miliardi di euro all'anno il debito pubblico. Lo abbiamo firmato, che facciamo? Lo rinneghiamo? Iniziamo a parlarne intanto, però su questo Letta ha sempre steso un velo di silenzio. A 7:38 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, al presidente degli industriali di Torino, ideatrice di questa marcia dei 40.000, di queste 5.914 rose rosse messe davanti alla Camera dei Deputati, chiedo: le sarà sembrato un po' strano arrivare a Roma nel momento in cui non c'era più il governo, o comunque meglio non avere un governo piuttosto che continuare a galleggiare? Guardi, io direi che il problema non è un problema di oggi, ma è un problema generale, perché noi sono più di 5 anni che chiediamo delle riforme di un certo tipo e che non le abbiamo, e siamo andati sempre peggiorando in termini di riforme che non si capivano, non aiutavano l'impresa. Quindi in realtà il fatto di cambiamenti ci tocca poco, a noi quello che interessa è che si facciano dei fatti e non più solo parole o solo tanti proclami. Adesso aspettiamo i fatti, vediamo che cosa succede, la cosa importante è che si faccia e si faccia in fretta. Quindi la prima riforma, al di là di quella elettorale, diciamo, che non compete poi il mondo delle imprese, che voi chiedete dal punto di vista dell'Italia produttiva, qual è? Guardi, sono due le cose, in realtà sarebbero tre le cose importanti. La prima cosa è il mercato del lavoro, ci vorrebbe una liberalizzazione del mercato del lavoro, questo sarebbe importantissimo per sbloccare tantissime situazioni. La seconda cosa è il cuneo fiscale, perché questo permetterebbe alle imprese di ripartire. E la terza cosa sarebbe il pagamento della pubblica amministrazione, perché teniamo presente che noi in questo momento abbiamo aziende che falliscono di credito, non si è mai visto. Cioè che falliscono pure essendo in credito? Certo, falliscono non perché hanno dei debiti, ma falliscono perché hanno dei crediti, capisce? Ecco, su questo per esempio il ministro, l'ex ministro dell'economia e tesoro Saccomanni, è stato troppo morbido con le banche secondo lei, o è stato più il governo a essere troppo timido, anche se ha iniziato a ripagare le imprese sui crediti, sui debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese? Ma guardi, io credo che qui sia sempre un problema di come noi affrontiamo le cose. Come diceva lei prima, ci vuole velocità, no? In America non è che non fanno i controlli, li fanno e li fanno in maniera efficiente. Noi le cose le facciamo timidamente da una parte, con lentezza dall'altra, abbiamo delle leggi emanate di cui mancano i regolamenti da 2 anni. Anche questo tutto a detrimento dell'industria, che le aspetta, no? Io potrei parlare di tanti settori che hanno questo problema. È tutto fatto così in Italia. E anche nel pagamento della pubblica amministrazione sono stati stanziati troppo pochi soldi e con dei tempi biblici. Ma le aziende falliscono oggi, non tra 2 anni, no? Ecco, e se per caso non doveste ottenere risposte, ripeto, i punti sono sostanzialmente due: burocrazia da un lato e pressione fiscale in busta paga dall'altro. Non doveste ottenere risposte, il prossimo giro cosa portate? 5.900 ortiche? No, guardi, io credo che il prossimo giro porteremo tutti quelli che si sono registrati sul sito, che è un esercito di imprenditori che non ce la fa più, e vedrà che siccome il sito ha un counter in cui ci sono da una parte il numero di aziende interessate, dall'altra il numero di collaboratori che sono rappresentati da quelle aziende, vedrà che questo, per la marea di cui parlavo prima, si allargherà e quindi darà l'idea di quanta parte del paese non ce la fa più. E quindi io credo che quello sarà ancora peggio che vedere 5.914 rose. E secondo lei, chiedo un'opinione personale, Renzi ha più sensibilità di quanta non abbia avuto Letta su questo? Ce ne vuole poco, però. Guardi, io posso dirle che personalmente non voglio esprimermi, perché sono talmente ormai stufa, e questo è un problema, di non avere risposte, di non avere stabilità, che voglio vedere i fatti, le dico. Ormai credo che sia una posizione tipica dei cittadini che si occupano di altre cose che non sia la politica, no? Non ne possono più. E quindi vediamo che cosa farà e poi potremo commentare. Grazie, in bocca al lupo, ma poi voi continuerete a mantenere questo sito di adesioni, se ho ben capito? È nato oggi, è partito oggi, cioè la nostra massa di 40.000 digitale, 40.000 in versione digitale, è stata lanciata ieri, ma il sito è partito oggi. Da oggi partono le ricezioni dei filmati, delle fotografie, delle frasi e dei pensieri degli imprenditori, e quindi da oggi deve esserci la marea che monta, capisce? Dal rivolo diventa fiume, da fiume diventa poi mare. In bocca al lupo a lei, ma soprattutto a tutti gli imprenditori che rappresenta, e appunto sono in Piemonte, solo quelli associati a Confindustria, 5.914. Grazie Alice Mattioli, presidente degli industriali di Torino e appunto ideatrice di questa marcia. Grazie a lei ed averci dato questo spazio per far capire quanto l'impresa soffra. Grazie veramente. Mentre continuano a piovere sms, messaggi dell'effetto Renzi nella vita privata, quotidiana, nei rapporti anche affettivi, io sono contento, contento per voi, più che per Renzi. Due risposte brevissime. C'è chi mi scrive: lei non capisce che l'euro deprime i consumi interni, non c'entra l'export. Ma guardi, l'euro a 1,36 dei primi consumi interni. Io avevo capito che i consumi interni di questo paese fossero stati depressi dall'aumento vertiginoso delle tasse, dai non tagli della spesa pubblica che quindi hanno mantenuto le inefficienze di questo paese aumentando la pressione fiscale, e anche da un taglio invece sì di alcuni trasferimenti. Questo avevo capito che fosse, oltre che da una congiuntura anche non così facile. Non capisco perché sia l'euro in sé a creare il crollo della domanda interna. A me sembra che siano i cittadini disoccupati e tartassati a spendere giustamente meno. E poi vedo il Fiscal Compact. Sì, il Fiscal Compact lo firmò il governo Berlusconi, il ministro Giulio Tremonti, su richiesta della Germania, che altrimenti non avrebbe fatto partire il piano eventuale di aiuto da parte della BCE alle economie europee. Per cui sì, possiamo anche ricostruire la storia. Fatto sta che quella cosa assurda l'ha voluta come pegno per un eventuale aiuto ai paesi del sud in difficoltà la Germania. Poi noi l'abbiamo firmata, devo dire, non è che voglia difendere Berlusconi Tremonti, ma vi ricordate in che situazione eravamo a ottobre, settembre, novembre del 2011? Va bene, adesso c'è il traffico, poi la borsa e poi Davide Serra, appunto l'uomo della finanza di Matteo Renzi. Vediamo appunto che cosa ci racconterà anche della scelta fatta dal segretario del PD. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, il nostro ospite Davide Serra, che è oltre che fondatore e il proprietario del fondo Algebris, è tra i grandi supporter di Matteo Renzi, suo consulente, se vogliamo dire, molto ascoltato sul fronte finanza. Ecco perché vorrei capire che idea lei è della finanza, visto che appunto vi sentite spesso. Poi risponderò anche a alcune domande che arrivano con gli sms. Confermo che secondo me è una cavolata dire che in borsa si sente già l'effetto Renzi. Casomai non si sente l'effetto Letta, e cioè i mercati tranquillizzati dalla Federal Reserve nei giorni scorsi erano già ben posizionati, mi riferisco allo spread soprattutto. Oggi Milano ha guadagnato più delle altre borse perché da noi, perché i bancari sono andati bene e da noi i bancari pesano di più, se vogliamo dire tutto. Se poi vogliamo dire che già l'effetto Renzi, va bene, in assenza di novità. Comunque, mentre lei, Serra, ha detto che un effetto Renzi ci potrebbe essere sugli investitori, perché questa viene vista come l'ultima forse possibilità per l'Italia di fare le riforme che Letta non sembrava più in grado di fare. A proposito di riforme, lei insiste molto sulla lotta all'evasione, sullo snellimento delle pratiche burocratiche, che come spesso sottolineo è una riforma a costo zero. Sono questi i due pilastri su cui dovrebbe muoversi il riformismo di Renzi? Sì, secondo me due temi. Uno, poi sulla parte invece dell'evasione fiscale, cioè i dati sono semplici, proprio i dati dicono che c'è stata evasione tra i 40 e i 50 miliardi di euro per 20 anni. Quindi alla fine abbiamo più o meno 1 triliardo di ricchezza che non ha pagato tasse. Ora, il bello dell'Italia è che con le riforme fatte negli ultimi 2-3 anni, oggi c'è una visibilità totale, che è dichiarazione dei redditi dall'alto, patrimonio dall'alto, patrimonio che sia case, attività finanziarie, conti correnti, cioè il consolidamento della vista del tuo patrimonio. Secondo me potrebbe essere molto corretto semplicemente dire: bene, scusate, invece di avere redditometro, che di fatto è depressivo perché dice non spendete perché sennò vi veniamo a controllare, la gente ha paura, anche chi è giustamente ha pagato le tasse, uno potrebbe semplicemente dire: bene, facciamo così, scusate, hai patrimonio di 100, hai dichiarato income negli ultimi 10 anni di 10, mi spieghi il 90 da dove arriva, e uno può dire: ho vinto il Totocalcio, mi è stato donato, ho investito all'estero, sono stato... Cioè lei farebbe un controllo incrociato tra patrimonio e reddito esatto, prodotto. Esatto, e in maniera non da Gestapo, dicendo: ah, c'è qualcosa di... Se mi vieni a spiegarlo, vorrei capire perché. E secondo me uno dei motivi non è mai stato fatto che mi viene il dubbio che magari buona parte di chi sta in Parlamento abbia interesse a non farlo o abbia avuto interesse fino adesso a non farlo, perché è talmente semplice e logico che sarebbe corretto. Oggi secondo me, dato che l'Italia è ovvio, ci saranno da fare dei sacrifici, riforme vuol dire sacrificio, vuol dire togliere lo status quo, vuol dire tutti i lobbisti che hanno sempre chiesto qualcosa a un certo punto non dovranno essere accontentati, penso che l'equità sociale sia la condizione sine qua non per poter fare delle riforme. Ecco, lei che e, prego. Scusi, e il tema dell'evasione fiscale è un tema drammatico perché è iniquo, non corretto e sfalda l'unità sociale. Sì, io vorrei che poi l'evasione fiscale si concentrasse anche e soprattutto sulla grande evasione, nel senso che va benissimo, è giusto che il commerciante, l'artigiano tutti. Non evada, evasione. Sì, però poi noi sappiamo che molte società per esempio hanno sedi fiscali in luoghi di vantaggio, anche lì è giusto controllarle per capire se c'è solo un vantaggio fiscale o se tu hai veramente la sede operativa lì. E lei che viene dall'Inghilterra però dove l'utilizzo del contante è quasi sconosciuto, nel senso sì, si usa per pochissime cose, ma si paga praticamente tutto con la carta di credito, non ritiene che forse bisognerebbe anche ridurre un po' l'utilizzo dei contanti in Italia, oppure c'è sempre lo spauracchio della vecchietta che non riesce a usare il bancomat o la carta di credito, che poi non si capisce perché le vecchiette degli altri paesi invece riescono a usare tranquillamente carta di credito, bancomat quant'altro. Ci sono due temi. Sullo stock, ossia i 40-50 miliardi che sono stati evasi per 20 anni, se tu annulli il contante non fai giustizia. Chi non ha pagato, quindi ci sono due problemi. Il problema dello stock, secondo me, va risolto senza avere un ingegnere nucleare, semplicemente dicendo, bene, hai dichiarato X, hai Y, spiegami il perché. E poi da lì si prenderanno. Secondo me, io farei così, adesso il governo, chiunque governo faccia quello che vuole, questo mi sembra una cosa di senso comune, buon senso. Poi il secondo tema è come posso disincentivizzare che questo continui. Il caso, noi abbiamo preparato delle slides che sono sul nostro sito, semplicemente frutto di esperienza, di analisi in altri paesi. La Corea era una situazione simile alla nostra a metà degli anni 90. Quella del sud, immagino. Corea del sud. E cosa successe? L'IMF disse, bene, mettete carte di plastica per tutti. E magicamente l'evasione è passata da 15 punti del PIL, come da noi, al 2-3. Ora, l'Italia ha vinto premi per il sistema di pagamenti. Hai una società come Poste Italiane, che è una delle emittenti, la principale emittente in Europa di carte di plastica, quindi dai bancomat, dalle carte di credito, carte di pagamento. Io non ci credo che le vecchiette non sappiano usare i bancomat. Io ho una nonna che ha 96 anni, lei lo sa usare. E quindi secondo me cosa fa sì? Fa sì che portare i pagamenti elettronici dà la tracciabilità e sicuramente è uno degli strumenti che aiuterà in futuro ad evitare questi ventennio di evasione fiscale. Scusi, un ventennio dove se quei 50 miliardi per 20 anni fossero stati pagati, noi oggi avremmo un debito su PIL non del 130 ma del 60%. Quindi saremmo il paese più virtuoso al mondo. Sì, vabbè, sì, tante cose saremmo se non ci fossero stati. Che però va sicuramente affrontato, perché il problema è che altrimenti altrimenti il paese perde confidenza in se stesso. Oggi la gente in Italia, io quando vengo spesso depresso, dico, ma non capite, è uno dei paesi più belli al mondo, c'è la gente intelligentissima, abbiamo l'arte e cultura, c'è qualcosa Serra, perché la fiducia un paese deve averlo, e poi non ci sono stati però molti elementi che ci hanno portato ad avere fiducia in noi stessi, nella classe dirigente. Poi gli italiani è vero anche che sono molto critici con gli altri, l'autocritica è sempre più dura in questo paese, le caste sono sempre quelle degli altri, le lobby sono sempre quelle degli altri, i settori protetti sono sempre quelli degli altri e l'evasione è sempre quella degli altri, e per cui sappiamo insomma come ragiona in parte l'opinione pubblica. Però mi dica una cosa, e secondo lei Renzi queste tre riforme riesce a farle? Innanzitutto mettiamola così, io tra tutti i politici che ho visto in Italia un investitore, che è il motivo per cui secondo me oggi il mercato è positivo, tra l'offerta politica che il mondo vede, ha sicuramente detto Matteo Renzi è la miglior chance che si abbia. Ora è come dire, la missione è una missione complessa, è come dire mandiamo qualcuno sulla luna, prendiamo il più bravo astronauta. Questa è la mia curiosità, ma personalmente lei non avrebbe preferito che Renzi si presentasse agli elettori, cioè che questa investitura data per straprobabile fosse arrivata attraverso le elezioni? Sicuramente il percorso, come dire, democratico, se io metto il cappello di chi vive in Inghilterra, nel 99% dei casi si vede un primo ministro che va alle elezioni e passa. Poi vedo in Italia ci sono stati negli ultimi 10 primi ministri, solo due che sono passati per le elezioni, e c'è una legge del voto che è stata dichiarata incostituzionale con cui si sono formati due governi, per cui se guardo all'eccezione italiana non sono un esperto, dico, sai che ti dico, l'hanno fatto per 6 volte su 8, questa volta viene rifatta, perlomeno questa volta penso che il candidato abbia una chance per farcela. Però anche lei avrebbe preferito, diciamo, le elezioni come mandato, come forza. Non teme che questo possa indebolire Renzi? Cioè non avrebbe... Sì, però non vorrei che fosse un tema teorico, perché hai una legge che è considerata incostituzionale. Il primo ministro che abbiamo ad oggi è frutto di quella decisione. Enrico Letta non ha passato per nessuna elezione. Quindi hai una situazione di fatto dove c'è un primo ministro neanche che, Monti, non, che né Monti, né gli ultimi due non sono passati per il voto popolare. Però la legge costituzionale dice che i partiti lo possono come dire, decidere, e quindi a un certo punto come dire, si segue la legge in Italia, quella che è, fin quando non la si cambia. E su questo ho capito, lei dice, insomma, c'è una legge costituzionale, è già successo nel passato. Non, se lei mi dice se sarebbe meglio, certo, avrei voluto che ci fosse legge costituzionale, che magari i parlamentari fossero stati scelti non col voto di lista. La lista dei se è lunghissima, poi c'è la pragmaticità. Secondo me, ecco, l'Italia non può permettersi altri 12 mesi di melina. E quindi secondo lei questo è il motivo per cui Renzi ha accelerato i tempi. Tornando ai temi di carattere economico-finanziario, dopo il traffico, però vorrei sapere, secondo, da quello che lei ha visto, che rapporto ha Renzi con il mondo della finanza, del fatto che lei abbia una sede dei suoi fondi alle Cayman, abbiamo già parlato nel passato, io non posso obbligarla a rientrare in Italia, lei ormai vive da 20 anni in Gran Bretagna, rispondo in questo modo anche a molti sms che stanno arrivando, però sapere, insomma, qual è il rapporto che, sano, virtuoso, che dovrebbe innescarsi tra quello che probabilmente con tutte le probabilità sarà il prossimo Presidente del Consiglio in Italia e la finanza, questo sì mi interessa. Allora, ultima parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni, nostro ospite Davide Serra. Non c'è nessun problema a dire consulente, consigliere di Matteo Renzi per quello che riguarda la finanza, supporter, ha fatto molte raccomandazioni dello stesso Renzi, taglio della spesa pubblica, riforma fiscale, riforma del sistema giudiziario, le abbiamo ascoltate alcune. Una cosa mi interessa però, visto che lei lo conosce molto bene, che rapporto ha il probabile futuro neuro premier, è veramente un lapsus freudiano, neo premier con la finanza? Io ho avuto l'impressione che è una persona pragmatica, che quindi 2 o 3 anni fa si è detto l'Italia ha bisogno di attrarre investimenti dall'estero, che siano industriali, di capitale, per finanziare il debito pubblico, e quindi è uno dei soggetti con cui io devo interagire. Quindi se non ne sono esperto, perché non ho mai, questo non è la mia capacità, bisogna comunque intrattenere un dialogo. Il dialogo cosa vuol dire? Che tra una delle proposte che vedo che tutto sommato perlomeno dice forse dobbiamo analizzare, uno si chiede ma come mai in Italia chi lavora paga il 45% di tasse? Chi investe in azienda ne paga il 55% e invece chi vive di rendita finanziaria paga il 20%. A un certo punto si dice ma scusate, perché? Perlomeno ti viene la domanda. Ah, su questo con e noi sfonda una porta aperta. E basta me... abbassare però la tassazione sul lavoro e sull'investimento di capitale in azienda e aumentare leggermente sulla renta finanziaria. Il problema qua è che abbiamo sempre aumentato un po' la renta finanziaria, ma non è mai calata la tassazione IRPEF, chiamiamola così, quindi sulle persone fisiche e sui capitali investiti per fare imprese. E secondo me quindi è importante che chiunque voglia fare politica a un certo punto debba capire quali sono i soggetti con cui io devo interloquire, quali sono i temi che devo affrontare e poter avere le leve. Per cui il mondo della finanza, guardi, in Italia questo tema, la finanza, la gente investe i propri risparmi in tutto il mondo, quindi alla fine chi investe sono fondi pensioni, assicurazioni, gente che gestisce il risparmio con la logica del far bene, da tutto il mondo. Mi dica ancora una cosa, io non so se su questo Renzi la pensi come lei, però lei ha dichiarato recentemente sulle vicende Electrolux, con un tweet, dicendo beh, la proposta di Electrolux è razionale, il costo del lavoro per l'azienda è triplo dopo gli oneri sociali in Italia, per salvare il lavoro dovete abbassare gli stipendi del 40%. Però mi scusi, Serra, da quello che io ho sempre saputo, la produttività non è in base al costo del lavoro, perché sennò dovremmo dire che in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Australia non c'è produttività. la produttività dipende da tutto un insieme di altri fattori, per esempio quanto sei efficiente, quanto poco tempo sprechi, quanto infrastrutture hai che ti rendono competitivo. Perché lei dice che dovremmo, tra virgolette, ridurci a quello che è il salario polacco? Io non penso che l'Italia debba competere andando a cercare di competere con i turchi, con la Polonia o con paesi emergenti. Non è quella la strada che i grandi paesi hanno intrapreso, compresa l'Inghilterra, che ha adottato altre forme per la produttività. Due temi. Uno, innanzitutto io supporto Matteo da privato cittadino. Lui pensa assolutamente e decide in base completamente autonoma, e io da privato cittadino penso e faccio dei commenti. In quel caso, quando ho letto la notizia, sono rimasto scioccato, perché ho detto, mamma mia, tu pensa, meno 40%, com'è possibile? E il vero tema per uno va a guardare, l'Electrolux produce dei beni di largo consumo. E guarda caso, non è una scelta se l'Italia vuole competere con la Polonia e la Cina. È la Polonia e la Cina che vuole competere con l'Italia. Noi siamo passivi in questo. Non è che decidiamo noi se andare a competere con loro. Sono loro che competono con noi. Quindi cosa succede? Nel momento in cui l'azienda dice, signori, io alla fine ho la produttività è data. Cioè, quando uno prende quanto ci vuole per la burocrazia aprire il capannone, quanto mi costa l'elettricità, quanto mi costa le tasse, quelle sono date, perché non è che l'Electrolux può dire, no scusate, io voglio pagare meno tasse, il costo dell'elettricità, sono date, bene, alla fine l'ultimo input dice, bene, quanto posso pagare le persone? E il dramma è che in Italia tutti parlano dello stipendio netto, si lamentano, ma nessuno vede che un'azienda costa il doppio o il triplo. Siamo d'accordo. E quindi il vero tema cos'è? Questa cos'è? È una, quello che in inglese si chiama sveglia, wake up call. Dice, signori, stiamo attenti, se noi non riduciamo il cuneo fiscale, il dramma è che il caso Electrolux possa espandersi ad altri settori, che sono i settori dove gli altri paesi stanno investendo e concorrendo. Quindi se noi vogliamo giustificare e continuare ad avere il PIL pro capite nei primi 10 al mondo, noi possiamo solo correre, perché tutti gli altri stanno correndo per produrre di più. E questo cosa vuol dire? Vuol dire innovazione, vuol dire meritocrazia, vuol dire fondamentalmente reggere il passo dei primi 10. Noi non possiamo permetterci di essere nei primi 10, ma continuare a fare investimenti che stanno facendo quelli in corsia numero 20 e 30. Questo è chiaro, però diciamo non è riducendo il costo del lavoro inteso come in busta paga che si compete. Assolutamente. Lei dice sono gli oneri chiamiamoli così, oneri impropri di sistema, che vanno dai costi della burocrazia, dalla lentezza della burocrazia, che è un costo, costi dell'energia, e anche oneri sociali, cioè la tassazione in busta paga. Il costo dell'energia è molto facile dire, tutti vogliamo l'energia verde, anch'io voglio l'energia verde, c'è un piccolo problema. Può l'Italia giustificare il 15% di bolletta in più per giustificare l'energia verde? Noi abbiamo già un costo dell'elettricità che è 35% superiore alla media europea. Gli Stati Uniti tra 5 anni avranno il costo dell'elettricità che sarà meno della metà della media europea. Quindi noi cosa continuiamo a dire? Bene, io la voglio verde. Non c'è nessun problema. Cosa vuol dire? Che avrai un sacco di aziende che dovranno chiudere. E a questo punto è un dibattito politico. Qualcuno deve dire, siamo disposti a perdere altri 500.000 posti di lavoro nei prossimi 5 anni perché vogliamo sussidiare i pannelli solari. È un problema di scelte. Io vorrei, vorrei chiudere da dove siamo partiti. Allora, in realtà lo spread era basso e la borsa andava bene anche prima dell'arrivo di Renzi, ecco perché io non penso che le agenzie abbiano ragione, sono un po' forzate. Lei che 2014 finanziario borsistico si aspetta per l'Italia? Secondo me, mettiamola così, l'Italia oggi ha un vantaggio che è uno dei paesi che è stato in situazione critica negli scorsi 3-4 anni e tutto sommato ha fatto di meno perché aveva i soldi per poter aspettare. Oggi il mercato si aspetta, se ci sono riforme secondo me l'Italia farà bene, tutti sanno quelle che... il bello è che l'Italia sa esattamente le riforme che bisogna fare e secondo me se vengono implementate l'Italia farà bene. L'Italia però è una posizione che non ha scelta perché essendo debole, perché comunque 20 anni a crescita zero fa sì che tu sei l'ultimo nella competizione, se per caso ci fosse uno shock che viene dalla Cina piuttosto che dai paesi emergenti, dagli Stati Uniti, insomma uno shock che oggi non possiamo prevedere, noi ci troviamo a non avere le risorse per reagire. Quindi secondo me che, che la situazione globale vada bene o male per noi è irrilevante, noi dobbiamo andare comunque. Io penso che questo sia uno dei motivi per chi ha guidato Matteo e il gruppo dirigente poi del PT, che hanno fatto una votazione pubblica, a dire tra il seguire la forma del corretto, cambiamo la legge, facciamo le elezioni, dire signore noi nei prossimi 12-18 mesi o cambiamo qualcosa o c'è il rischio che non ci arriviamo. alla fine ci sono due interessi, e penso che l'interesse cruciale sia mettere l'Italia in grado di competere e ridare speranza al paese. Se Renzi glielo proponesse, lei farebbe ministro delle finanze nel governo? Guardi, questo io l'ho già detto 3 anni fa. La sola idea che qualcuno... Cambia tutto in 3 anni. Sì, però il problema è questo, è una questione di competenze. La mia competenza è, investo nel mondo da 20 anni, viaggio in 70-80 paesi tutti i 12 mesi e riesco a vedere la differenza. Una persona come me, che ha lasciato l'Italia a 20 anni e oggi ne ha 43, l'idea di poter prendere qualcuno e venire a fare il ministro delle finanze è ridicola, no? Okay, per il no. semplice fatto che faccia conto che io non guardo la televisione italiana da 23 anni. Quindi non so, mi auguro che non si sia così disperato. Non sa che si è perso. Ci saranno persone molto più competenti. Non sa che si è perso. Grazie. Allora, ma Renzi come ha fatto a conoscerlo se non guarda mai nulla, non vede la TV italiana? Guardi, per questo motivo, perché mi è stato regalato un libro, ho letto la biografia, ho visto che ha fatto un'esperienza scout come me da ragazzo, mi ha colpito e gli ho mandato un'email, lui mi ha risposto, mi ha detto guarda, la prima volta che vai a Firenze vieni a mangiare un boccone, e da lì è partito. A un certo punto mi sono detto, vedi, questo è un ragazzo che ha la mia età, anzi più giovane, 3 anni più giovane, che ha una matrice valoriale normale, quella che ho vissuto nei miei 20 anni di esperienza Italia, ha un quoziente intellettivo alto come le persone che lavorano in giro per il mondo e ha il coraggio di dire ci provo ed è disposto a limite a mettere a sacrificio, come dire, la carriera, a prendere rischi, perché oggi o ci si prova a cambiare o altrimenti tra 18 e 24 mesi la situazione sarà peggiore. Quindi vi siete conosciuti così, in maniera assolutamente normale. Casuale. E lei non farà né il ministro delle finanze né il sottosegretario delle finanze. Non farò nessun ministro, anzi, e penso che lo spirito che mi guida, l'ho già detto più volte, semplicemente quando tu vivi per 22 anni all'estero e hai il passaporto e ho l'accento italiano come ho nonostante parli 3 lingue, alla fine ti fa male vedere l'Italia maltrattata e considerata un paese di seconda classe quando non lo è. E più conosci le persone in Italia, più vedi il potenziale che ha e quindi dici, bene, se posso dare una mano da osservatore, da investitore. E comunque cosa che dobbiamo fare per lavoro, perché investendo globalmente in 70-80 paesi, l'analisi economica e politica la facciamo comunque. Grazie, grazie allora a Davide Serra e vedremo poi se si verificheranno le cose che anche lui auspica e soprattutto se appunto il mercato, la borsa e l'atteggiamento degli investitori resterà quello che abbiamo visto in queste ore. E intanto auguro a voi un ascolto, vedo molti messaggi anche di critica per lei, torni alle Cayman, resti a Londra, non tutti sono d'accordo, ci mancherebbe, l'importante è farli parlare, ascoltare quello che dicono e vedere poi quello che faranno, questo nel caso del prossimo nascituro governo, e noi saremo qui a giudicarli, a commentarli, a verificare, a fare un controllo anche dei fatti. Intanto grazie a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Da Sebastiano Barigioni lo auguro di una buona serata, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.